14B. Ascolta e controlla. 1. La storia di cui ti parlo è vera. 2. La macchina con cui viaggiamo è di Matteo. 3. La persona a cui scrivo vive in Olanda. 4. Il paese in cui lavorano è lontano da qui. 5. L'azienda per cui lavoro ha molte sedi nel mondo.